Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Dopo l'allarme e la denuncia ieri degli artigiani, oggi la volta dei commercianti. L'assemblea di Confcommercio infatti torna sui temi che già ieri avevamo toccato ascoltando gli artigiani: la tassazione. 162 giorni ci vorranno nel 2013 per pagare le tasse, 162 giorni. Ne occorrevano 140, pensate, nel 1990 e 150 nel 2000. Questo vuol dire 36 giorni, o 33 giorni per la precisione, in più rispetto alla media europea. Per cui nel resto d'Europa lavorano un mese in meno, in realtà un po' di più perché sono giorni lavorativi, un mese e mezzo in meno per pagare le tasse. Tra l'altro, questo vuol dire per l'Italia un onere da 10 miliardi di euro di tasse in più ogni anno, quasi il 50% in più della media europea. E poi i consumi, la Confcommercio con l'Istituto CER stira una classifica allarmante, perché cioè è la flessione più forte da 70 anni nel commercio, iniziata nel 2008. Sostanzialmente dal 2008 ad adesso ogni famiglia ha avuto un calo del potere d'acquisto di 3.400 euro. La cosa, diceva, allarmante è che la Confcommercio dice che per tornare alle dinamiche di crescita precedenti al 2008 bisogna attendere non i famosi 5 anni che spesso abbiamo evocato, quindi 2015-2017, ma addirittura il 2036. Dice infatti la Confcommercio: attenzione, torneremo al livello del 2007 nel 2036. Ora, io non fosse altro che a livello scaramantico proporrei un gufo per questo 2036, non perché abbiano torto, ma perché ci auguriamo che abbiano torto. In realtà poi ne parleremo, la Confcommercio, arrivano anche altre richieste di scongiurare l'aumento dell'IVA senza se e senza ma, e dall'altro lato alle banche di uscire dalla stretta creditizia. Fischiato il ministro allo sviluppo economico Zanonato, come poi racconteremo. Questo sarà il primo tema. Ci occuperemo però anche di una proposta che arriva dalla Confindustria di Vicenza: la partecipazione dei sindacati al rischio di impresa da un lato e la possibilità per le imprese medio-piccole, non piccolissime, ma medio-piccole, di emettere dei mini bond, quindi di raccogliere soldi attraverso dei mini prestiti, che permetterebbe in parte di aggirare appunto la restrizione del credito da parte delle banche. Un altro tema di cui ci occuperemo riguarderà l'Alitalia. Allora, qui è smentita dall'Aeroflot l'interesse nell'acquisto della compagnia italiana. Oggi il Presidente del Consiglio Letta ha detto: ho sempre pensato che il futuro dell'Italia debba essere dentro una grande alleanza internazionale, e questo pensiero lo porterò sicuramente avanti da Presidente del Consiglio. Per cui anche Letta prende tempo, lo ha fatto in conferenza stampa congiunta con il ministro sloveno Alenka Bratušek. Tra l'altro, sempre Letta ha detto che l'Italia è molto interessata al processo di privatizzazione che si sta avviando in Slovenia. Ma dicevo, sull'Alitalia l'Aeroflot ha smentito. Tra l'altro il ministro delle infrastrutture Maurizio Lupi ha detto che è allo studio una proroga per Alitalia del fondo per la cassa integrazione, che scade al 2015. Nel frattempo però i lavoratori della Indesit di Fabriano hanno iniziato a bloccare a metà giornata il collegamento tra Fabriano e Sassoferrato, oltre 400 persone. Il ministro Giovannini ha detto di essere preoccupato per le ricadute occupazionali nell'area di Caserta e di Fabriano, per quello che riguarda i 1200 esuberi, solidarietà E ha spiegato Giovannini che dal Ministero del Lavoro c'è piena disponibilità ad utilizzare le misure vigenti a partire dai contratti di solidarietà. E questo per quello che riguarda il fronte italiano. Parleremo però anche di licenziamenti, o meglio licenziamenti, parliamo proprio in senso stretto di licenziamenti, perché continua a destare molto, più che scalpore, devo dire in alcuni casi anche curiosità, quello che è successo, l'abbiamo raccontato ieri, in Grecia, in cui la RAI greca ha semplicemente chiuso, cioè non trasmette più nulla, 2600 dipendenti a casa, riaprirà la rete di Stato greca con almeno la metà dei dipendenti, nel giorno in cui la Grecia viene, unico paese tra quelli occidentali, viene declassificata dalla società che confeziona gli indici azionari, seguiti dagli investitori di tutto il mondo, la società si chiama MSCI, viene classificata a paese in via di sviluppo, a mercato emergente per gli investitori, quindi non più paese sviluppato ma paese e mercato emergente. Io direi a questo punto da paese sviluppato a paese emergente, però. L'asta dei bot italiani oggi è andata bene, il bot a un anno sotto l'1% il rendimento. È salito un po', dallo 0,70 di maggio allo 0,96% di oggi, però la domanda era buona, una volta e mezzo l'offerta. Tra l'altro la Germania anche ha collocato oggi bot a due anni, gli Schatz, per 4 miliardi di euro. Il rendimento è salito anche lì dallo 0,02 allo 0,18%, resta un rendimento negativo al netto dell'inflazione, chiaramente. Però buona la domanda anche per la Germania, quasi doppia rispetto all'offerta. L'inflazione in Italia resta all'1,1%, quindi cala leggermente nel mese di maggio. Praticamente l'inflazione è l'ultimo dei nostri problemi, lo dico in maniera molto tranquilla, che ne pensi la Bundesbank tedesca. E adesso arriveremo anche alle polemiche su questo processo, a mio avviso farsa, dai, diciamola tutta, che la Corte Costituzionale tedesca si occupi di sapere se cosa deve fare la Banca Centrale Europea, ed è del tutto pretestuoso ed è un modo per andare politicamente a contarsi in Germania, soprattutto anche nella CDU, nei Cristiani Democratici, per capire chi è a favore di una certa Europa e chi no. Perché l'avessimo fatto noi con la Corte Costituzionale, un processo della BCE, ci avrebbero riso dietro i tedeschi e avrebbero fatto anche bene. Allora ridiamo dietro noi i tedeschi una volta tanto. Sì, adesso forse glielo do un gufo alla Bundesbank, come suggerisce un ascoltatore. Però andiamo avanti. Dicevo, l'inflazione in Italia è all'1,1%. L'Istat però fotografa anche l'inflazione dei beni più consumati, il cosiddetto carrello della spesa, è all'1,5%, per cui siamo sostanzialmente a inflazione quasi inesistente, perché poi dobbiamo levare, questi sono i beni più consumati, ma se prendiamo l'1,1% e leviamo i prezzi energetici ci rendiamo conto che in alcuni settori siamo in deflazione vera e propria. Allora andiamo alla Germania, visto che continua il processo alle misure della BCE, del fondo OMT, il fondo salva stati, quello che dovrebbe intervenire. Non si è ancora mai mosso, cioè non è ancora mai stato utilizzato questo fondo, che dovrebbe, con una tecnica un po' particolare, per cui il paese è sotto attacco speculativo che vede lo spread salire a livelli insostenibili, emetterebbe le obbligazioni comprate dalla Banca Centrale Europea a tassi molto bassi, in modo da riportare verso il basso i rendimenti delle obbligazioni di quei paesi, quindi ridurre lo spread. Dicevo, il processo si tiene a Karlsruhe, i giudici di Karlsruhe. Oggi il capo dell'istituto IFO, che è un importante istituto di ricerca in Germania, Hans Werner Sinn, ha detto: la mania del salvataggio è straordinariamente pericolosa. Il programma di acquisto dei titoli di Stato stimola i paesi deboli a fare ancora più debiti, minaccia rischi per i contribuenti per 1.363 miliardi di euro. E gli ha fatto eco il presidente della Bundesbank e quindi la Banca Centrale Tedesca, Hans Widmann, consigliere della Banca Centrale Europea, che votò contro il piano, in polemica anche con Draghi, dice attenzione, è il provvedimento OMT è di dubbia legittimità, la sua potenza di fuoco è illimitata e non sappiamo se è compatibile con il mandato della Banca Centrale. C'è il rischio che la Banca Centrale Europea si assuma attraverso il fondo di salvataggio degli stati rischi relativi a uno specifico stato membro. Invece a favore è il membro del direttore tedesco della BCE, Jörg Asmussen, dopo che ieri anche Angela Merkel aveva difeso Mario Draghi, e il Fondo Monetario Internazionale, che dice attenzione, lo dice Christine Lagarde e lo dice in un'intervista su Deutsche Zeitung, un'uscita prematura delle misure straordinarie potrebbe distruggere di nuovo la fiducia recuperata e i paesi sovraindebitati dovrebbero combattere di nuovo con il rischio di dover uscire dall'euro. Molto interessante questo dibattito, molto interessante. Devo dire, non ho capito che cosa porterà, ma mi lascia molto perplesso quando leggo da un capo di un istituto di economia come l'IFO questa sorta di mania del salvataggio è straordinariamente pericolosa e rischia di portare i paesi più deboli a fare ancora più debiti. Io vorrei sapere una cosa, con il massimo rispetto, ma dove cavolo vive Hans Werner Sinn? Io non ho chi abbiamo salvato in Europa? Se la Grecia salvata, sì, ma con penali fortissime, non mi sembra che, e l'abbiamo salvata prima del meccanismo OMT, l'abbiamo salvata anche perché molte banche tedesche avevano prestato soldi alla Grecia, oltre che le banche francesi, c'è stato un salvataggio con un haircut, cioè tutti i creditori della Grecia hanno ricevuto il 50% in meno, per cui quello è uno. Cipro abbiamo fatto il prelievo sui conti correnti, perché non capisco quali soldi abbiamo speso come europei, e soprattutto dov'è che il capo dell'IFO vede i paesi deboli aumentare vertiginosamente il loro debito? A me non sembra che da quando Draghi ha lanciato l'OMT, il meccanismo salva stati, Portogallo, Italia, Spagna si siano messi ad aumentare il debito e a spendere a man bassa. Non mi sembra proprio, per cui sono tutte posizioni ideologiche, ma vorremmo da chi si occupa di economia anche dati fattuali. Dove sono questi aumenti di debito da quando c'è l'OMT? Dov'è la mania di salvataggio, visto che per salvare la Grecia ci abbiamo messo 2 anni grazie alle resistenze tedesche e abbiamo combinato casini uno dopo l'altro dando l'idea che l'Europa e l'area euro non erano nemmeno in grado di salvare un paese come la Grecia? Ma dove sono? Le borse, adesso arrivo, no, oggi ho un po' invertito l'ordine delle notizie. Le borse, allora, è peggiorata la giornata, nel senso che Milano perde l'1,31%, era partita abbastanza piatta, Milano perde l'1,31%, mentre per quello che riguarda Parigi il calo dello 0,20, Francoforte meno 0,90, Londra meno 0,50, l'America invariata. Perché Milano peggio delle altre? Perché oggi vanno particolarmente male alcune banche, la Popolare di Milano perde il 4,90%, UbiBanca il 3,90%, Monte dei Paschi 3,60%, questo anche dopo i dati sull'asta dei bot con i rendimenti leggermente in calo nonostante lo spread sia sceso a 270. Banco Popolare meno 2,90%, segnaliamo tra gli altri titoli Fiat meno 3,80 e Saipem meno 2,60. Bene invece Campari più 1,70, Autogrill più 1,60, Mediaset più 1,40% e ancora Ansaldo STS più 1,20%. E adesso un po' di notizie che, come ogni tanto facciamo, raccontano la crisi. Madrid vende praticamente la sua metropolitana. La linea rossa del metro di Madrid diventerà da settembre la linea Vodafone, non sto scherzando, nel senso che il colosso telefonico diventerà il partner della metropolitana. La fermata Puerta del Sol, che è la fermata simbolo della linea, il chilometro zero della Spagna, dove parte un po' tutto il conteggio dei chilometri, la fermata Puerta del Sol è diventata Vodafone Sol. Il rosso tipico del brand non imporrà cambi alla decorazione, ma tutte le scritte verranno aggiornate con il nome dello sponsor. E la Spagna è il primo paese in Europa a vendere la sua metropolitana. Non so se questa operazione possa essere ripetuta anche in Italia, ma dovesse servire a completare le metropolitane a Milano e a Roma, auguri, ben venga. Tra l'altro la scelta di marketing non va però a genio a molti. È una metropolitana ben funzionante, molto efficiente, ma costosissima da mantenere, e viaggia il deficit come deficit. La società che la gestisce con 800 milioni di rosso annuo. E il contratto triennale con Vodafone farà entrare nelle casse del metro 1 milione in più l'anno. A tutti appare un'inezia, in effetti è così, però i gestori ribattono che comunque il 10% delle attuali entrate pubblicitarie. (349) 238 6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Partiamo allora con il primo tema: l'assemblea annuale di Confcommercio. In giugno, inizio giugno, inizio luglio, si svolgono, fine maggio, inizio luglio, si svolgono tutte le principali assemblee delle organizzazioni datoriali, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, e le raccontiamo giorno per giorno. Devo dire che mai come quest'anno i temi sono molto molto vicini, cioè paese stretto nella morsa di un prelievo fiscale che risulta ai più insostenibile e da una stretta creditizia delle banche che risulta ai più inspiegabile. Infatti proprio di questo ha parlato il presidente di Confcommercio oggi, mi riferisco a Carlo Sangalli. Consumi a livelli pre-crisi solo nel 2036, mai così male il commercio in 70 anni, 162 giorni ci vogliono per pagare le tasse contro i 139 del 1990. Il che significa 10 miliardi di euro in più di oneri fiscali rispetto alla media europea, siamo al 50% in più. Ecco perché Sangalli ha chiesto evitare, scongiurare l'aumento dell'IVA senza se e senza ma. Bisogna quindi, lo ripeto, agire tempestivamente e agire in profondità. Agire tempestivamente. Lo si è iniziato a fare, tra l'altro, con il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga. Lo si è iniziato a fare anche con la sospensione dell'IMU. Ma bisogna adesso proseguire con un'organica revisione della tassazione degli immobili, una revisione che concorra a dare solide fondamenta alla finanza comunale, ma che prenda insieme atto della insostenibilità dell'attuale carico sugli immobili strumentali delle imprese, compresi negozi e alberghi, per i quali va consentita la deducibilità non solo dal reddito d'impresa ma anche dall'IRAP. Altrettanto tempestivamente va scongiurato l'ulteriore aumento dell'IVA di un punto. Qui occorre davvero un approccio senza se e senza ma. L'impatto di questo aumento sui consumi, sulla crescita e sull'occupazione sarebbe davvero benzina sul fuoco della recessione, benzina su un fuoco ancora ardente, visto che consumi, crescita e occupazione picchiano già al ribasso da ormai troppo tempo. Queste le parole di Sangalli su IVA e sul dato dei consumi. Poi arriveremo al rapporto con le banche. È intervenuto poco dopo il ministro dello sviluppo economico Zanonato e anche sull'IVA, e si è beccato, penso, il primo ministro del governo Letta, i primi fischi al governo Letta, e fischi anche non da poco. Mi piacerebbe essere qua e potervi dire non aumenteremo l'IVA. Non è che non lo voglio fare, è che non lo posso in questo momento fare. Si tratta, figuratevi quanto mi piacerebbe potervelo dire, si tratta di una decisione che è stata presa va bene, dai, forza che continuo il mio intervento. Si tratta, attenzione, spieghiamoci su queste cose perché serve poco, cerchiamo di capirci. La volontà di farlo resta, è forte, c'è un lavoro, non posso dirvi che lo siamo in grado di farlo. Va bene, si tratta di una decisione che non è stata presa dal mio governo, dal governo a cui partecipo. E il corrispondente incremento di gettito è già all'interno del bilancio dello Stato. Se noi sospendessimo per portare al prossimo anno l'incremento IVA, dovremmo trovare 2 miliardi nel bilancio, tagliando o le spese mi scuso se in 40 giorni non abbiamo ancora risolto questo problema, cerchiamo di capire di che si tratta. Per evitare, dicevo, questo incremento occorre individuare nuove entrate o ridurre le spese che a regime aumentano a 4 miliardi l'anno. Teniamo presente che questa cosa non si può considerare isolata da altre misure che abbiamo adottato. Quella, per esempio, di bloccare l'IMU, che ha lasciato nelle tasche dei cittadini italiani 2 miliardi di euro, e che ci impegna a riformare complessivamente questa partita, o alla questione di cui vi ho parlato poco fa, del miliardo trovato per la cassa integrazione in deroga. Il commento, no, non c'è molto commento. Ha ragione Zanonato nel dire che 40 giorni sono pochi e 2 miliardi e mezzo vanno trovati. È anche vero che 2 miliardi e mezzo non sono una cifra enorme in questo momento, bisognerebbe capire quali sono le priorità. Allora, è ovvio che se tu vuoi reperire i soldi per ridurre il cuneo fiscale, la pressione in busta paga per i lavoratori, rinunci all'IVA e fai quello. La cosa peggiore però sarebbe beccarsi l'aumento dell'IVA, non beccarsi nessuna decontribuzione in busta paga, magari a partire dai neoassunti, e quindi restare tutti fermi così. Dopodiché, allora, senza nessuna demagogia, la pubblica amministrazione in questo paese costa 800 miliardi l'anno, adesso vi do anche la cifra esatta, la spesa pubblica in Italia viene un po' più di 800 miliardi. Allora, siccome il 40% sono pensioni, protezione sociale, insomma ci sono tante altre voci che potrebbero essere tagliate da questo punto di vista, no? Le raccontiamo ogni giorno, quindi un po' più di sforzo nella spending review no? Andrebbe anche fatto. Quando Enrico Bondi ha proposto una spending review in cui si risparmiavano 500 milioni di euro su 800 miliardi di spesa, abbiamo fatto la battuta, insomma, come se tu chiedessi a tua moglie di risparmiare perché avete difficoltà a arrivare a fine mese, lei ti dice, beh sai, nell'arco di un mese ho risparmiato 50 euro, capito? Cioè, no? Non so cosa possa succedere a quella povera signora, su. Dopo il meteo e la pubblicità, invece, sentiamo gli altri passaggi di Sangalli, e mi riferisco alla pubblica amministrazione, il pagamento di almeno 40 miliardi di crediti da un lato, e dall'altra anche al rapporto con le banche. Ci risentiamo dopo il meteo, però. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Facebook di Focus Economia su Facebook. La borsa ha chiuso ora meno 1,60%. Again. 17:37 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, e continuiamo con le parole molto dure del presidente della Confcommercio Sangalli. Però devo dire una cosa, hanno ragione alcuni ascoltatori. A me dispiace che il ministro Zanonato sia stato fischiato, obiettivamente è da 40 giorni che è in carica, non ha grosse responsabilità. Però probabilmente quando Zanonato dice levare l'IVA costerebbe 2,5 miliardi, uno Stato che ne spende 800 di spesa pubblica, ho capito che il 40% sono pensioni e salari, ma possibile che sugli altri 400 miliardi non si riesca a trovarne due? Lo 0,5%? Detto questo, forse a giudicare anche degli sms che stanno arrivando, il disinnamoramento o un principio di disinnamoramento, ammesso che ci sia mai stato l'innamoramento, arriva perché insomma è settimane che ci occupiamo anche oggi, fatemi aprire un inciso brevissimo, insomma le agenzie battono e i principali titoli sono Letta, le riforme opportunità unica, piena autonomia dei saggi, Quagliarello, fare presto, Finocchiaro, non c'è il piano B, Franceschini, la procedura d'urgenza per il DL costituzionale, istituzione del comitato dei 40, cioè la vera urgenza è l'istituzione del comitato dei 40 saggi per le riforme istituzionali. Letta ribadisce la centralità del Parlamento, l'autonomia dei saggi, ai quali il ministro Quagliarello dice bisogna fare presto per evitare che ancora una volta sopraggiunga qualche evento che impedisca di arrivare in porto. Ma porca miseria, il paese sta morendo e qui siamo a occuparci ogni giorno delle riforme costituzionali. Ma fate sta cavolo di legge elettorale, fate sta riforma e diteci come si esce da questo pantano a costo di andare a Bruxelles a far saltare la baracca e mescolare le carte. Ma non si può ogni giorno occuparsi, lo dico anche ai miei colleghi, poi è chiaro che perdiamo copie nei giornali, riforme opportunità unica, è 7 anni che si parla della riforma elettorale e qui chiudono ogni impresa che apre, ne chiudono 4 nel mondo dell'artigianato, la Confcommercio ci dice che torneremo ai livelli di potere d'acquisto del 2007 nel 2036, ma dove vivete? Adesso mi calmo e sentiamo la proposta di Sangalli invece sulla pubblica amministrazione. Quanto al nostro patto di stabilità interno, è tempo di una sua compiuta revisione per mobilitare anche gli investimenti degli enti locali e per procedere nell'azione di sblocco del pagamento dei crediti delle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo del pagamento di questi crediti per 40 miliardi tra il 2013 e il 2014 va assolutamente conseguito e va confermato l'impegno all'avvio di una seconda fase. Una seconda fase che consenta di procedere al compiuto pagamento, e si tratta ancora di tante decine di miliardi, al compiuto pagamento dell'intero stock storico di questi crediti anche attraverso il concorso della Cassa Depositi e Prestiti. È un punto fondamentale. Sarebbe intollerabile vedere ancora che, a fronte dell'efficienza di meccanismi di riscossione, le pubbliche amministrazioni risultano inaffidabili nel pagare quanto dovuto. E poi l'appello / invito alle banche, la stretta del credito si aggrava, le banche sono troppo care. Sarebbe intollerabile anche per la liquidità delle imprese, messe duramente alla prova da una stretta creditizia che permane e anzi si aggrava. E come se non bastasse, in Italia i servizi bancari sono più cari che negli altri paesi europei. Una ragione in più per affrontare finalmente anche la riduzione dei costi che gravano sulla moneta elettronica. Una simile stretta creditizia merita davvero di essere assunta come una priorità dell'Unione, facendo anzitutto avanzare l'Unione interbancaria. Intanto, per quel che riguarda il nostro Paese, la risposta alla stretta creditizia richiede anche il potenziamento del ruolo del Fondo Centrale di Garanzia e del sistema dei consorzi fidi, oltre che la facilitazione del ricorso alla emissione di obbligazioni da parte delle piccole e medie imprese. E poi poco fa il segretario generale della CISL Raffaele Bonanni, che ha aperto il 17° congresso confederale. Situazione economica al limite del collasso, serve uno shock fiscale. E tra l'altro oggi la CGA di Mestre, nel esprimersi in maniera negativa contro l'aumento dell'IVA, fotografa consumi pro capite tornati al livello del 1998, e dal momento dell'introduzione 40 anni fa dell'IVA, l'IVA è variato 8 volte, raggiungendo il valore massimo del 21%, con una crescita che è la più alta tra i paesi, una crescita, non il livello, è la crescita dell'IVA la più alta tra i paesi dell'area euro. Anticipiamo un po' il traffico, perché a proposito di proposte, non voglio tornare sul tema delle riforme costituzionali perché mi innervosisco. A proposito di proposte, dopo il traffico ascolteremo le proposte che hanno portato avanti gli industriali di Vicenza, molto concrete, mi rendo conto, non così alte, non così, diciamo, da grande statista come di chi si occupa delle riforme costituzionali, però sai che mai, no? Qua bisogna vivere e arrivare a fine mese tutti i giorni, siamo un po' più prosaici, ci occupiamo anche di come far trovare un po' di credito alle piccole imprese e anche di far partecipare i sindacati alla gestione del rischio di impresa. Mi rendo conto che non abbiano nulla a che vedere con le grandi riforme costituzionali di Quagliariello, della Finocchiaro. Traffico! Faircam, e la tua merce viaggia sicura come te. Scopri di più su faircam.it. .17:46, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, lasciamo l'assemblea di Confcommercio, ma continuiamo, dicevo, a occuparci del malessere, delle difficoltà che accomunano purtroppo tutto il mondo produttivo italiano. Eh sì, perché non ci sono solo le proteste dei commercianti oggi, degli artigiani ieri, come dicevamo, molto incentrate sulla tassazione, obiettivamente a livelli difficilmente sostenibili, ripeto, 50% in più rispetto alla media europea, e con 162 giorni che ci vogliono per pagare le tasse. Ce ne vogliono 130 nel resto dell'area euro, e quindi insomma, noi lavoriamo un mese, più di un mese e mezzo, perché insomma, se consideriamo anche i festivi, per pagare le tasse rispetto alla media europea, un mese e mezzo in più. Non solo, dicevo, contro la pressione fiscale, ma anche contro le banche, la stretta creditizia, e appunto abbiamo raccontato e ascoltato i fischi al ministro Zanonato sull'IVA. C'è però una proposta che arriva da una delle terre a maggiore industrializzazione in Italia, mi riferisco alla provincia di Vicenza. È arrivata una proposta in settimana da parte della Confindustria di Vicenza, che vuol dire 2.400 imprese associate, per il 90% piccole e medie imprese, 100.000 addetti, con un calo della produzione nei primi tre mesi del 2%, però una tenuta, seppur in rallentamento, dell'export. Dicevo, una proposta per tra virgolette aggirare il problema del rischio credito, o soprattutto della stretta sul credito, e avere anche nuove partecipazioni, diciamo, al rischio di impresa. Ne parliamo con il presidente degli industriali vicentini, Giuseppe Zigliotto. Buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Dunque, voi avete proposto, se ho ben capito, dei mini bond a cui dovrebbero partecipare anche i sindacati, e quindi un modello, non dico tedesco perché sarebbe troppo, ma insomma che si avvicina al modello tedesco di partecipazione al rischio di impresa. Come funzionano questi mini bond? Perché esiste anche una piattaforma nella borsa italiana, e ci sono già alcuni gruppi che hanno fatto ricorso a questo mercato, penso a Cerved, a Sisal, a Rota Farm, a Guala Closures, e hanno raccolto complessivamente circa 3 miliardi di euro. Il riferimento per tutti, lo dico per inciso, è la CAR, un'impresa torinese che è attiva nell'indotto automobilistico, aerospaziale e ferroviario, a 80 dipendenti, ha collocato un prestito da 3 milioni di euro. Che cosa proponete voi, Zigliotto? Bene, in realtà quello che lei, sono due proposte messe insieme che credo sia giusto spiegarle e distinguere. La prima, quella di mini bond, riguarda la capacità, la possibilità che un gruppo di, diciamo non proprio piccole perché diventa complicato dal punto di vista dei costi di organizzare, ma chiamiamole medie imprese, cioè aziende da almeno una 15-20 milioni di euro di fatturato, che non sono proprio delle grandi o medie imprese, ma cominciano ad avere già una certa struttura, aziende che abbiano comunque un bilancio ma quantomeno certificato, un gruppo di imprese possano mettersi insieme, creare quindi un fondo che possa raccogliere quindi sui mercati attraverso il supporto di alcune banche che potrebbero piazzare questo fondo del capitale, delle obbligazioni vere e proprie, certificate con rating bancario, un rating anche in una città di revisione dei costi però contingentati, quindi non troppo pesanti, e quindi andare sul mercato e fare in modo che soggetti anche istituzionali, tipo le finanziarie regionali, anziché anche i vari fondi di pensioni integrative, eccetera, possano sottoscrivere obbligazioni su piccole e medie imprese. Ripeto, chiamiamo piccole perché con 20 milioni di fatturato non stiamo sicuramente parlando di grandi imprese. Questo potrebbe permettere uno strumento alternativo al problema del solito che è o patrimonio gracie delle imprese, quindi la difficoltà, o solo debito bancario che poi comunque viene pesato. Ricordo che in caso di sottoscrizione di queste obbligazioni ci sarebbe una serie di vantaggi. Il primo, di uscire sotto il problema, lei sa che se per le imprese gli oneri bancari superano il reddito aziendale, sopra una certa cifra non si può detrarlo, quindi si potrebbe detrarre gli oneri bancari in questo caso, e si uscirebbe anche dalla centrale rischi, quindi si ridurrebbe l'impatto anche visivo sostanziale del debito d'azienda dal punto di vista anche della rischiosità. Questo si unisce a una seconda proposta che abbiamo fatto, che è quella che invece qui da noi era molto sentita molto bene, ha avuto anche molto che era successo sul territorio. Una volta le nostre imprese contavano su una riserva, su un polmone che era il TFR. Il TFR era di fatto una quota di lavoro che si pagava quando una persona usciva, e questo permetteva alle aziende di avere un tesoretto, una riserva, un polmone che però non veniva pagato se non in tempi posteriori. Il TFR è stato, diciamo, defondato, portato via o tolto con il discorso delle pensioni integrative, e le aziende oggi non hanno più questa quota di riserva. Perché non immaginare degli accordi sindacali con le aziende in cui un'ora alla settimana, mezza giornata al mese, diventino di fatto una qualcosa di non pagato, cioè una prestazione d'opera non retribuita, ma che va a creare un tesoretto aziendale, una riserva, ripeto, un polmone come era TFR una volta, e insieme con i sindacati, dopo un anno, nel momento giusto, valutare o il ripagamento oppure la possibilità che questo venga trasformato in un'obbligazione o in una quota aziendale. I sindacati chiedono da tempo di poter partecipare alle scelte aziendali, però giustamente gli imprenditori le loro scelte le pagano, le rischiano, se sbagliano pagano loro. Io credo che se uno vuole partecipare alla gestione deve anche partecipare al rischio. In questa maniera si potrebbe valutare e trovare un modo per far integrare di più. Sia chiaro che anche gli imprenditori, oltre che i sindacati, devono cambiare mentalità e devono essere più aperti, e quindi portare a una maggiore comunicazione e a una maggiore trasparenza di bilancio, e quindi a quel punto anche a un maggior coinvolgimento. Che tipo di reazione avete avuto da parte dei sindacati su questa ipotesi di partecipazione? Beh, la CISL, devo dire, da noi la CISL Aurelia mi sembra che abbia dato una risposta molto positiva, e sono molto interessati perché è anche una raccolta di una loro richiesta che c'era stata di un maggior coinvolgimento alle scelte aziendali. La CGL regionale, ho letto sul giornale oggi, è abbastanza fredda, ma mi sembra che la confondeva con un problema di stipendi e remunerazioni. Qua non stiamo parlando di togliere stipendi alla gente, qua stiamo parlando di dedicare una fetta, anche se io credo che un'ora alla settimana non sia quello che sicuramente compromette la mezza giornata al mese, eccetera, l'equilibrio finanziario, ma questo vorrebbe dire però mettere le aziende in maggior forza, in una maggior condizione. Se poi riuscissimo a avere su questo tipo di magari accantonamento, lavorandoci bene magari anche come Confindustria, magari una riduzione come sui straordinari della parte contributiva, eccetera, eccetera, vorrebbe dire che è un'agevolazione fiscale. Beh, certo, che non vuol dire soldi, vuol dire sempre minori tassazioni. Qua nessuno chiede soldi, chiediamo minori tasse, e quindi cercare alla fine anche qua di intervenire sul cuneo fiscale. La CISL, ripeto, la CGL la vedo un po' più fredda, però credo che la CGL stia cominciando a cambiare un po' atteggiamento, mi auguro che cominci a entrare in più una logica che se vogliamo ragionare in più di sulle scelte aziendali bisogna però veramente sedersi insieme, non si può pensare. Ecco, per concludere invece sul mercato dei mini bond, che cosa vi attendete? Perché io qualche esempio lo citavo, ma insomma sì. C'è interesse anche nel riuscire a collocare questi mini bond? Ma io credo che l'interesse ci sia. Noi abbiamo anche recentemente incontrato alcuni soggetti istituzionali, tipo dei fondi pensionistici, che sarebbero interessati, perché alla fine la vedono bene, e anche le banche da questo punto di vista la vedono come qualcosa che obbligherebbe comunque le aziende a un qualcosa di più strutturale, quindi sicuramente importante. Dobbiamo un po' tutti però crescere in questa cultura, attenzione, dobbiamo uscire dalla solita cultura in cui c'è solo capitale dell'imprenditore o solo debito. Noi dobbiamo cominciare a farlo, ma sperando di farlo nella maniera sana, non nella maniera con cui abbiamo visto la finanza comportarsi in ultimi anni. Io credo che le aziende hanno bisogno di strutturarsi di più e di poter contare su fonti di finanziamento a costi ben identificati. Cioè, è chiaro che questo non è un debito bancario che si rimborsa, qua si rimborsano degli interessi, e dopo 5 anni, ad esempio, uno lo chiude, lo paga o lo trasforma direttamente in capitale se i soci ci stanno. Certo. Dipende che, e c'è chiaro che una parte di questi bond, secondo me, dovrebbe vedere anche l'impegno comunque dei singoli imprenditori, la sottoscrizione o pure di anche di certo, una parte la sottoscrivi tu in modo che mostri che anche tu ci credi. Certo. Visto che chiedi un prestito, una parte lo paghi tu con i tuoi soldi privati, diciamo, e poi dopo 5 anni. Intanto uno guadagna di interesse, se vuole ritira il si fa ridare i soldi, o viceversa può essere convertito in azione. Una vera e propria obbligazione. Sì. Oppure si rimette un'altra obbligazione più importante se l'azienda nel frattempo ha usato questi soldi magari per fare acquisizioni. Cioè, io credo che noi dobbiamo metterci in condizione di poter muoverci. Oggi siamo veramente inchiodati, e il credit crunch che c'è stata, la riduzione di 50 miliardi in meno di prestiti delle imprese in Italia negli ultimi 18 mesi, di fatto sono mancanza di liquidità al sistema. Dobbiamo cercare di aprire questa leva, di fare in maniera di muovere questa ruota. Allora Zigliotto, in bocca al lupo a lei e a tutti i dipendenti delle industrie che rappresentate a Vicenza. Grazie al Presidente Confindustria Vicenza. Io devo chiudere e poi ci risentiamo dopo il GR. Focus Economia. Minuti, torna Focus Economia con voi Sebastiano Barisoni. Facciamo adesso la borsa e poi ci occupiamo di Alitalia e della RAI greca, senza voler fare paragoni e paralleli con la RAI italiana. Comunque, visto che il governo dice non sappiamo dove trovare risorse per 2 miliardi per l'IVA, beh, insomma, qualche privatizzazione forse potrebbe anche partire, o almeno un ragionamento se ha un senso tenersi l'Alitalia, che perderà quest'anno, stando alle previsioni, più di 300 milioni di euro, e tenessi una RAI in queste condizioni, chiaramente da risanare, senza nessuna provocazione. Comunque la borsa la facciamo con Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Eleonora. Buonasera. Archivierei i bancari oggi, perché lo spread, il rendimento del botto a un anno in rialzo dallo 0,70 allo 0,90 ha penalizzato le banche. Popolare di Milano meno 4,70%, Monte dei Paschi meno 4,60%, Ubibanca meno 4%, Banco Popolare meno 3,70%, come la Popolare Emilia Romagna, Mediobanca meno 2,70%, Unicredit meno 2,5%, Intesa meno 2,30%, ed è questo il motivo per cui Milano perde l'1,60%, mentre Parigi perde solo lo 0,44%, Francoforte lo 0,96%, Londra lo 0,60%, l'America sta perdendo lo 0,40%. Invece, al di là delle banche, vorrei un commento tuo su Fiat, meno 3,70% da un lato, dall'altro invece bene Autogrill più 1,40%, ma in recupero anche Mediaset più 1,40% anch'essa. Sì, guarda, per quanto riguarda Fiat, i titoli sono arrivati a perdere molto di più, poi hanno chiuso in calo del 3,7%. Quest'oggi a dare il là è stato un report molto interessante di UBS, soprattutto per il fatto che gli esperti della banca svizzera hanno indicato il fatto che Fiat avrebbe necessità di rafforzare il capitale, indipendentemente da come sarà raggiunto l'accordo con il sindacato Veba per rilevare la quota di Chrysler. Tra l'altro hanno dato un po' in là a una voce che da tempo circola sul mercato, cioè che ci sia questa ipotesi di un rafforzamento del capitale Fiat, ipotesi che peraltro Marchionne ha smentito, ma evidentemente il mercato, diciamo, sta in campana su questo eventuale scenario. Comunque è stato anche un pretesto, i titoli avevano corso molto, così arretrando del 3,7% si sono riportati a 5,5 euro. Ancora questo per quello che appunto riguarda Fiat. Mentre il suo autogrill è Mediaset, sì. Mediaset è più 1,37%, i titoli hanno iniziato a correre soprattutto nella seconda parte della seduta. Va detto che nelle ultime sedute hanno corretto, hanno perso molti punti, ma soprattutto c'è anche la partita di Hightower, la controllata infatti di Mediaset, che comunque ha guadagnato meno mezzo punto percentuale, pare che sia in corsa per rilevare le torri che vuole vendere Atlantia. Si tratta di circa 300 torri che sono peraltro anche nel mirino di una cordata di imprenditori. In questo caso la società si rafforzerebbe, ma comunque questo aspetto speculativo ha finito per riaccendere i riflettori sulla galassia, diciamo, Mediaset, e incoraggiare un po' di ordini in acquisto. Autogrill invece continua a correre ormai dalla scorsa settimana, dopo che è avvenuta la scissione tra duty free e ristorazione. Il mercato scommette che questa scissione favorisca, come peraltro hanno detto i manager del gruppo, lo stesso Gilberto Benetton, favorisca eventuali aggregazioni e operazioni straordinarie. Il mercato ci crede e per questo continua a spingere in alto le azioni. Ancora per quello che riguarda altri titoli, Parmalat si avvicina all'assemblea dei soci di venerdì. Sì, si avvicina all'assemblea dei soci. Sul finale le azioni hanno perso lo 0,7%, comunque hanno arginato le perdite, peraltro nel durante della seduta sono andate in controtendenza, perché praticamente sempre il mercato si interroga sulle future mosse dei francesi di Lactalis, dopo le vicende del che hanno visto appunto il tribunale all'opera anche per giudicare la validità del prezzo con cui è stata riacquistata la società negli Stati Uniti da parte di Parmalat, un prezzo inizialmente indicato come non equo e troppo elevato. Ci si interroga se i francesi non stiano effettivamente meditando di lanciare un'OPA su Parmalat, delistarla da Piazza Affari e quindi poi fare tutto ciò che vogliono. Questa almeno è un'ipotesi che circola in questi giorni a Piazza Affari. Qualche delucidazione potrebbe arrivare proprio venerdì dall'assemblea. Ancora tra i titoli segnaliamo tra i migliori, diciamo, non i migliori in assoluto, ma tra chi oggi è positivo, Ansaldo STS più 1,40 e A2A più 0,90%. Migliori e peggiori in assoluto invece RCS, Rizzoli Corriere della Sera Media Group più 14% quasi, e tra i peggiori invece Vita Società Editoriale meno 6,1%. Chiudiamo con RCS. Titolo in realtà poco liquido, quindi sì, poco comprabile e vendibile, no? Semmai una battuta anche su A2A, che è stata favorita dalla possibilità che si riparli di una multi-utility del Nord, favorita dal risultato elettorale che ha visto un avvicendamento del centro-sinistra nel comune di Brescia, che ricordiamo azionista di A2A, e anche al comune di Roma, cioè chissà non metterà i paletti e forse magari in seconda battuta rientrerà anche in questa aggregazione di utility, o almeno il mercato così ragiona. Per quanto riguarda RCS, domani dovrebbe essere fissato il prezzo dell'aumento di capitale, che dovrebbe partire lunedì, aumento di capitale da 380 milioni di euro. I titoli oggi sì sono letteralmente volati, d'altra parte nell'ultimo periodo solamente dal 30 maggio avevano perso circa il 40% del proprio valore, quindi con un titolo così poco volatile è bastato qualche ordine in acquisto per invertire la tendenza con questa violenza. Grazie Donora Micheli. Segnalo che tra i più negativi c'è anche Caltagirone Editore meno 5,81 e tra i più positivi Fintel Energia Group più 17,5%, Neurosoft più 7,2%. Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Govorite Poruski. Gianni, vuol dire parli russo? Sì, no. Niente, perché lo dico? Perché ci occupiamo di Alitalia e insomma oggi Aeroflot ha smentito di essere interessata all'Italia. Però qui qualche problemuccio c'è, perché insomma le perdite del trimestre sono arrivate a 157 milioni di euro, l'anno scorso ha perso 280 milioni, Tu che sei un profondo conoscitore dei corridoi di Alitalia, com'è che nasce questa ipotesi dei russi, al di là di un'ipotesi di stampa? E il premier Letta però subito ha detto attenzione, non c'è nessun interesse per Aeroflot, non c'è emergenza, il futuro però è verso un'alleanza più generica. Prego Gianni. Ma ha detto una frase, io direi un po' alla Letta, cioè un po' generica. Mi stupisce che dica che non c'è un'emergenza quando la compagnia, con i dati che tu Sebastiano hai ricordato, sta perdendo, potremmo dire, a bocca di barile, e quindi le perdite incessanti, i capitali sono finiti, e non arriverà alla fine dell'anno con i soldi che hanno messo gli azionisti. D'estate incassa di più, quindi va un po' meglio la situazione di cassa, ma le perdite proseguono. Quindi occorrono degli azionisti, occorrerà a breve, diciamo entro 8, 10, 12 mesi, una ricapitalizzazione. Perché spunta il nome di Aeroflot? Alcuni tra i 20 soci italiani pensano che si debba cercare al di fuori del rapporto con Air France, che è interessata ma non vuole svenarsi, cioè non pagherebbe quello che gli italiani vogliono per prendere tutta la compagnia, quindi cercano magari attraverso banche altre soluzioni. Aeroflot comunque credo sia la terza volta in 6 mesi che smentisce un interesse. Però c'è un punto, allora, quando ci fu la famosa polemica su vendere o no all'Italia Air France, io lo ricordo tranquillamente, chi vi parla era assolutamente a favore della vendita, nel senso che da sempre difendiamo l'interesse nazionale, ma siccome nelle compagnie aeree questo interesse non c'è più da molti anni, cioè non è una compagnia energetica, non ha dati sensibili, basta vedere KLM, le compagnie americane, British Airways e quant'altro, a noi sembrava più utile vendere Air France. Air France avrebbe pagato a quel tempo 2 miliardi, se non ricordo male. Sì, avrebbe preso tutti i debiti, fatto una ricapitalizzazione e sviluppato la flotta a lungo raggio. 2 miliardi, forse 3, comunque. Adesso quanto pagherebbe secondo te? Forse pagherebbe neanche 200 milioni. E vai. No, lo dico perché, siccome siamo partiti dall'IVA, diciamo, dove trovare le risorse? Non dico che si possano trovare con l'Italia, però se ogni tanto anche ci ricordassimo di errori compiuti, col senno di poi è facile, ma noi lo dicemmo allora. Air France pagava tutti i debiti più 2 miliardi e mezzo circa per comprarsi l'Italia, mo ci darebbe se no 200-300 milioni. Mi sembra che il gioco non valga la candela in questo momento. Entro 9 mesi la ricapitalizzazione, secondo te si andrà verso quella poi? Ma chi li mette i soldi, Gianni? Esatto, questo è il punto, perché Air France comunque il discorso che ha fatto è i soldi li mettiamo nella compagnia aerea, non li diamo ai soci, in questo caso Colaninno, Banca Intesa e gli altri privati che sono entrati nel 2008. Quindi i soldi vengono messi dentro la società. Per metterli ci vuole un piano industriale credibile, realistico, efficace. E quindi chi li mette? La compagnia potrebbe anche offrire ad altri soci questa opportunità. Si parla di un possibile, più direi potenziale, interesse della compagnia Etihad Emirati Arabi Uniti, però siccome questa compagnia è già collegata da un'alleanza commerciale con Air France, anche con Alitalia più in piccolo, non potrebbe questa operazione essere fatta se non c'è un accordo anche con Air France. No, io dico, vabbè, adesso non voglio essere troppo polemico, ma sarebbe veramente uno smacco se alla fine fossimo obbligati comunque a venderla a un prezzo molto più basso, avendo buttato dentro comunque soldi dei privati, ho capito, avendo fatto anche la bad company, tanto valeva venderla a suo tempo, nel 2008 se non ricordo male, 2008-2009, direttamente ai francesi. Lo so, è inutile che scriviate, entrò alla vicenda all'Italia in pieno la campagna elettorale e il governo vincente di centrodestra, ossia Silvio Berlusconi, fu nettamente contrario, lo sappiamo tutti questo, dico semplicemente, poi uno può avere idee diverse, ci mancherebbe, vai a valutare cosa è successo in questi anni, ti rendi conto che era meglio vendere, dai, basta. È come la riforma della legge elettorale, ogni 4-5 mesi ci occupiamo dell'Italia, cosa dobbiamo fare ancora? Ricapitalizzare per altre perdite? O usare questi soldi magari e un incasso per defiscalizzare un po' la busta paga, i contributi, vedere cosa si può fare sul libro, non so, un po' di fantasia. Grazie Gianni Dragoni, c'è il traffico comunque. sono anche i sindacati a non volere la cessione di Alitalia Air France. È vero, ma non che questo cambi il ragionamento e l'analisi. Anche i sindacati spesso non è che abbiano avuto tutta questa lungimiranza. Comunque, da un'Alitalia che perde, come diceva Gianni Dragoni, a bocca di barile, ci spostiamo alla Grecia, perché lo abbiamo raccontato ieri e oggi nel GR, la TV pubblica greca RT, la RAI greca, è stata chiusa, proprio chiusa. Tutti licenziati, 2.800 dipendenti, perdeva 300 milioni di euro l'anno, dovrebbe riaprire con un numero ridotto di dipendenti. E dice la Commissione Europea, la TV greca non è stata chiusa per nostra richiesta, ma per modernizzare l'economia greca. La nuova RT, la nuova RAI greca, si chiamerà Nerit S.A., e sarà gestito da un ente statale appartenente al settore pubblico e sarà finanziato tramite un canone per gli abbonati che continueranno a pagare sulla bolletta della fornitura elettrica, ma non è precisato l'ammontare. Allora, con la massima sensibilità e anche solidarietà con i 2.800 dipendenti, Dimitri Deloianes, nostro ospite molte volte quando parlavamo della crisi greca e oggi nei nostri GR, era il corrispondente della RT, la RAI greca, dall'Italia. Buonasera e ciao Dimitri. Ciao. Cosa ti posso chiedere? Allora, innanzitutto, che cosa spera di ottenere il governo greco dalla chiusura della RAI greca? Ma soprattutto, liberiamoci per un attimo della casacca professionale. Era un pozzo senza fine la RAI greca? No. No. La RAI greca dal 2010 era un'azienda florida che produceva utili forti, alcune decine di migliaia di decine di milioni di euro, ma era una società in attivo, aveva ridotto di un migliaio gli impiegati e ci siamo ridotti in tre successivi tagli gli stipendi, per cui insomma i problemi della sua chiusura non sono economici. E quali sono allora, Dimitri, i motivi della chiusura? Perché la notizia ha avuto un impatto simbolico fortissimo, adesso lo dico con, è chiaro, risanare i conti, però chiudere, proprio spegnere il canale televisivo nazionale, una cosa che non si era ancora mai vista se non, e lo dico senza nessun riferimento, durante i colpi di Stato. Prego. Sì, no, ma il riferimento è giusto, perché anche a giudicare dalle modalità che sono state seguite, per cui faccio un esempio, c'è stato questo annuncio ieri pomeriggio verso quest'ora del ministro portavoce del governo responsabile per i mezzi di informazione pubblici, il quale ha deciso lui senza neanche informare gli alleati della coalizione di governo, quindi i due partiti più piccoli del socialisti e la sinistra democratica, cosa che probabilmente creerà, anzi sta già creando intense reazioni da parte di questi due partiti dentro il Parlamento. I motivi veri sono la assoluta necessità di Samaras di trovare consenso, di costruire una storia, una success story che non gli esce da nessuna parte, perché incassa a sconfitte a ogni suo passo, e quindi regalare il monopolio dell'informazione televisiva greca, che poi è quella che conta a livello di grandi numeri, ai canali televisivi privati, che sono un grosso problema per la Grecia, un enorme problema e, secondo la mia modestissima opinione, una delle cause della crisi economica che ci sta attanagliando. Perché? Perché c'è un circuito perverso tra potere politico dei due maggiori partiti che hanno governato negli ultimi 20 anni, i socialisti e i conservatori, e la proprietà, gli imprenditori che detengono questi sei canali privati che contano. Perché sono tutti imprenditori ampiamente diciamo così interessati a fare affari con lo Stato, con appalti, forniture e via di questo passo. Quindi crea una degenerazione e un orientamento, diciamo così, di interessato a livello informativo. Questo è un grosso problema, è un enorme problema per la democrazia greca e che ha conseguenze anche economiche. La televisione pubblica, certo, non era la corazzata che può essere la RAI in grado di fare concorrenza al settore privato, ma era un'isola di pluralismo e di equilibrio, diciamo così. E questo fai bene a ricordarlo, Dimitri. Allora, un conto sono i conti economici, altra cosa però è anche il pluralismo, anche perché quando tu parlavi di imprenditori vicini alla politica, qualche riferimento ce l'avevamo anche noi qui. Noi ci auguriamo intanto che possano essere riassunti anche in parte dipendenti, che parte questa Nerit, che la Grecia abbia una TV pubblica come qualunque paese, e che sia una TV pubblica che comunque non perda a bocca di barile. Lo dico perché senza nessun parallelismo con la RAI, chiudiamo con i conti della RAI per vedere se lì qualche margine si può avere. 13.000 dipendenti, di cui 1.700 giornalisti, 40.000 collaboratori, 21 sedi regionali, 14 uffici di corrispondenza, 13 canali TV, 5 canali radio. Bilancio, 250 milioni di euro di rosso nel 2012, di cui 50 milioni investiti per le pensioni anticipate per sfoltire l'organico, debito consolidato a quasi 400 milioni di euro, 1.300 cause di lavoro aperte su 13.000 dipendenti, una ogni 10, con una frequenza di una causa al giorno e un costo complessivo di 105 milioni solo per i contenziosi legali. È brutto far paragoni, ma insomma. Un augurio di buona serata da Sebastiano Berisoni, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.